2.800 euro netti al mese. 2.800 euro netti. Però lei cumula questo, un vitalizio, perché è stato consigliere regionale della Regione Sicilia. Deputato regionale. È vero che in Sicilia lo statuto speciale, vi chiamate deputati. La Costituzione. Cioè. E quant'è il vitalizio da deputato regionale? Credo sì. Non ho ancora avuto quello definitivo, ma credo sui 4.000-4.100 euro. Al mese sempre. Sì. E poi vitalizio da ex parlamentare nazionale. Lei ha dovuto tra l'altro rinunciare per questa sentenza della Consulta, era sindaco e parlamentare. Vitalizio sì. Anche da parlamentare, che ammonta? Quasi 3.000 euro, 2.850 euro. Al mese. Ci ha molto colpito leggere una sua dichiarazione, guadagno anche poco per quello che faccio, la conferma? Certo che la confermo, perché io credo che il vitalizio sia proporzionato a quello che ho versato in vita mia, non è che il vitalizio mi viene regalato, il vitalizio è in rapporto ai contributi che ho versato, sono soldi miei che ho versato, sì. E quindi naturalmente riprendo i soldi in parte che ho versato. Però io ho fatto un rapido calcolo, siamo sui 9.000 euro al mese. Penso che sia poco rispetto a quello che ho versato. Lei deve tenere conto di quanto ho versato e non deve immaginare che questo mi sia regalato. Ho già detto pubblicamente che sarei disposto a riprendermi i soldi che ho versato e rinunziare al vitalizio se fosse possibile. Lei sa che questo è una cosa che vale per tutte le pensioni. Tutti i pensionati hanno un qualcosa in base a quello che hanno versato. Però lo scandalo del Parlamento è che uno magari ha il vitalizio per 5 anni diversamente. Una cosa che nessuna pensione al mondo è così. Non è il mio caso, perché ho versato contributi per 35 anni, quindi non mi riguarda. Quelli che prendono il vitalizio dopo 5 anni sono un'altra storia, non hanno nulla a che vedere con la mia storia personale. Io ho lavorato, ho fatto con grande impegno il parlamentare e sono sempre stato eletto soltanto una volta, nominato, come suol dirsi, tutte le altre volte è stata una scelta democratica anche con le preferenze. Ho sempre avuto grandi risultati elettorali, non faccio soltanto il sindaco di Mazara del Vallo, ho fatto anche il sindaco in un'altra città . E prima di mettermi da parlamentare ho sempre fatto gratuitamente il sindaco, prima a Calatafimi Segesta, adesso a Mazara del Vallo. La sentenza della Corte Costituzionale . Ha detto che non si poteva fare e lei ha rinunciato al Parlamento. Sì, però capisce sindaco che sentirla dire di questi tempi con 9.000 euro guadagno anche poco... Fa un pochino specie. Ah, guarda, c'è gente che guadagna milioni di euro all'anno facendo i dirigenti. Altro, sì, poche persone. Insomma, il principio è che uno deve riprendere quello che ha versato. E se io camperò 152 anni, avrò recuperato tutti i soldi che ho versato. Se lei mi garantisce che vivrò 152 anni, potremo cominciare a discutere. Ma i soldi che ho versato li potrò riprendere in 152 anni. Ho più di 60 anni, poco più di 60 anni, io metterei la firma per poter riprendere i miei soldi. Ma questo perché gli stipendi dei parlamentari nazionali o anche deputati regionali sono scandalosi. Ecco, questo perché, ha versato tanto per questo. Guardi, questa è un'altra storia, con questa logica che anche lei porta avanti facendo il suo mestiere finirete con l'abbassare il livello della qualità del Parlamento, questa è la mia convinzione. Cioè lo stipendio è alto per tenere alta la qualità del Parlamento? Io credo che sia questo il principio che deve essere rispettato, se qualcuno non se lo merita è un problema di altri. Secondo lei è rispettato adesso questo parametro, cioè il livello attuale del Parlamento è meritorio dei soldi che prendono? Non sempre questo giudizio mi vede d'accordo, io sono convinto che gran parte del Parlamento sia di grande livello e penso che la gran parte dei parlamentari guadagnerebbero anche di più se facessero dei mestieri diversi rispetto al parlamentare. Ci sono fior di professionisti, fior di avvocati, fior di ingegneri, ci sono anche scienziati, uomini della cultura, giornalisti di grandissimo livello. Ne guadagnerebbero di più se facessero un altro mestiere. Senta, mi ha colpito anche con 9.000 euro più o meno, da quel calcolo che ho fatto, che lei mi ha detto, lei abbia anche dichiarato il mio conto in banca è sistematicamente in rosso. E sindaco, che spese sostiene? Ma guardi che un politico ha naturalmente nella vita un tenore di vita appunto da tenere, ci sono dei contributi che si versano, si aiuta il partito, ci sono le campagne elettorali, ci sono le segreterie politiche e quelli che vengono rimborsati sono niente rispetto a quello che un deputato deve avere, ci sono anche degli inserimenti in società, mica è così. Per esempio io sono convinto di aver fatto regali di nozze 10 volte di più di quelli che ha fatto lei, per dirne una, la più semplice, no? Pensi a tutti quelli che venivano ogni giorno a trovarmi a Roma e che offrivo loro almeno un passaggio in trattoria, no? Pensi ai costi anche di si fa politica anche così, si fa politica anche così, bisogna intrattenere relazioni. Le spese ci sono e quindi evidentemente penso che sia, questo non significa che io accetti una condizione nella quale altri magari lavorino quanto un parlamentare guadagni, non è, no? Questa è un'altra storia, sono convinto che gli stipendi italiani siano bassi rispetto anche ad altri paesi e bisognerebbe intervenire in tal senso, sì. Ma non è che si raggiunge l'equilibrio abbassando lo stipendio di chi se lo merita. Quindi lei per concludere dice è tutto meritato, sia lo stipendio, sia tutti questi vitalizi, sia i 9.000 euro al mese, è demagogia insomma quella che fanno molti giornalisti. Sì, è demagogia. Tutto del ragionamento mediocre di certe cose, perché le sto ripetendo che il vitalizio che prendo è una sorta di restituzione parziale di quello che ho versato. Io sarei pronto, ripeto, a riavere i soldi che ho versato e rinuncio al vitalizio. Va bene, no, non rinunci, per carità. Intanto io la ringrazio, sindaco, per essere stato con noi. Abbiamo fatto un po' di conti in tasca. Grazie al sindaco di Mazara del Vallo, Nicolò Cristaldi. Avete sentito dire, insomma, vitalizio da ex parlamentare, da ex deputato siciliano e stipendio di sindaco, 9.000 euro netti, ma è tutto giusto, anzi guadagno anche poco rispetto a ciò che faccio. Ci fermiamo e poi parleremo con il vostro contributo anche 800240024 su di Mario Monti che dice voglio cambiare gli italiani. Intanto Atene brucia, insomma, è l'uomo che potrà cambiare l'Europa, come dice il Time. E l'Europa, almeno una parte di Europa, appunto, come detto, brucia. Attenzione, Atene. 24 mattino. Allora 800240024, ce la farà Mario Monti a cambiare gli italiani come ha promesso, come cercherà di fare, ed è lui l'uomo giusto per cambiare l'Europa come auspica il Time nell'ultima, accompagnando Mario Monti nell'ultimo viaggio negli Stati Uniti. Mario Monti e gli italiani, ne vogliamo parlare con il direttore del Foglio Giuliano Ferrara, che saluto, buongiorno e ben ritrovato direttore. Buongiorno. Saluto anche il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno, ben ritrovato anche a lei, Padellaro. Eccoci. Buongiorno. Intanto, Ferrara, ce la farà Monti a cambiare l'Europa? Intanto un'appendice geografica dell'Europa, vale a dire Atene brucia. Anzi, a proposito, Atene è lontana o è vicina da noi? È vicina, nel senso che tutti dicono che questo dramma greco, per cui insomma non si capisce più come si fa a mettere insieme il pranzo con la cena a Atene, a Salonicco, a Patrasso e nelle isole. Questo dramma greco è legato al fatto che non soltanto loro hanno subito delle feroci misure di austerità e di sfiducia europea nella nazione, nell'identità della nazione, cioè sono considerati un paese di ladri ai quali gli aiuti possono essere dati solo nella forma di un conto controllato dalla Troica, dal Fondo Monetario, dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale, e che non sono in grado neanche di salvarsi con l'elemosina del continente. E questo fatto è terribile, non perché c'è stata l'austerità, ma perché pare che l'austerità non serva a niente, e questo è il vero interrogativo sul quale credo che anche chi guarda razionalmente al governo Monti come a una escogitazione anomala, ma diciamo che sta cercando di farsi largo come realistica prospettiva, a questo interrogativo bisogna rispondere. È possibile che anche le nostre misure di austerità poi alla fine nella recessione inneschino poco la famosa spirale per cui una persona, un ente, un paese indebitato, se deve ripagare il suo debito con un ritmo accelerato, folle, se viene messo dentro la spirale dei mercati che strozzano il suo debito, poi alla fine se non cresce, se non fa ricchezza, si indebita ancora di più. Questo è il punto. Sì, l'austerità come una delle facce, ma se il peso fiscale sul lavoro, se la ripresa manca, se ristagna l'economia, allora non basta, insomma, ci sta dicendo Ferrari. Io voglio dire, spero che basti, ma ho il sospetto che per curare l'Italia sia necessario un taglio di spese inverosimile e probabilmente non realistico politicamente, che non sarebbe retto né dal governo Monti né da alcun altro governo. E se questo è vero, taglio di spese e taglio di tasse per crescere, altro che liberalizzazione dei taxi e delle farmacie, allora siamo nei guai. Antonio Padellaro, siamo nei guai, e la stessa domanda è a lei, cioè Atene è così lontana o Atene è molto vicina? Pare che Monti sia rimasto molto impressionato dalle immagini viste ad Atene. Vabbè, Atene è lontana e vicina, è chiaro che la situazione italiana, la struttura dell'economia italiana, la dimensione del paese ci mettono un pochino di più al sicuro. Sono d'accordo con Ferrara sul fatto che la cura, se deve essere una cura efficace e definitiva, dovrebbe essere ben più profonda, che non appunto alcuni aggiustamenti e certamente sacrifici che il paese ha fatto. No, però volevo tornare sulla domanda iniziale, Time, cambierà, quest'uomo cambierà l'Europa. Ecco, io devo dire che la nuvola d'incenso che ha accompagnato il viaggio di Monti negli Stati Uniti non giova a Monti, con qualche eccezione, credo che il Fatto e il Foglio siano tra queste, la stampa italiana ha glorificato questo viaggio. Ora Monti va aiutato, secondo me, anche evitando questi eccessi, anche perché poi lui ogni tanto si scivola su qualche frase, no? Questa del cambierò gli italiani non è una frase felicissima, anche perché ci hanno provato in tanti a cambiare gli italiani, è un modo di dire un po' così poco politico. Ricordiamo lo famoso aforismo di Mussolini: governare gli italiani non è difficile, è impossibile, o inutile, meglio, è inutile. Sulla politica di Monti bisogna dire che sta cambiando invece il sistema politico italiano, perché Monti e i tecnici che erano arrivati per una fase così di transizione e si stanno affermando nei sondaggi, e la credibilità di questo governo va di pari passo con la mancanza di credibilità dei partiti. Sì. Il governo Monti ha 56-57% di gradimento, i partiti, sempre che questi sondaggi siano realistici, io penso abbastanza, sono al 7-8%. L'impressione è che siamo entrati in una fase nella quale di Monti o dei Monti o dei governi tecnici sarà difficile fare a meno, visto che il paese si sta abituando a questa nuova forma di politica. Ma su questo vorrei il parere di Ferrara, ma anche su appunto il viaggio, io ironicamente ho detto che si attende il primo quotidiano che pubblichi la agiografia anche a puntate di Mario Monti, per questo abbiamo due direttori, non avete mai lisciato il pelo effettivamente a Mario Monti, sia lei che Padellaro. Ferrara, questo cambiare gli italiani, non credo che voglia dire antropologicamente Mario Monti, in cosa secondo lei si è esercitato in questo modo? Io penso che invece volesse dire proprio quello. Antropologicamente. Antropologicamente, adesso insomma, sociologicamente, comportamentalmente, non lo so, adesso non so come qualificare la cosa. Quello che è sicuro è che a noi alcune cose non piacciono, non ci piace l'idea di pagare per la sanità, non ci piace l'idea di pagare per l'istruzione, e sono le due grandi, vere fonti di spesa senza intervenire sulle quali ho l'impressione che non si andrà da nessuna parte. Cioè, si è creato un impero economico finanziario di dimensioni bestiali nel campo della sanità e subiamo ancora le conseguenze a popolazione scolastica declinante di una mastodontica impresa di pubblica amministrazione che dall'istruzione a molti altri settori, la stessa burocrazia, il ministerialismo, eccetera, ci impalla ed è quella che ha prodotto fondamentalmente il debito pubblico attuale. Siccome mi pare che noi non vogliamo pagare per le medicine, questa è la sostanza delle cose, non vogliamo farci delle assicurazioni al posto dello Stato che ci assicura lui, non vogliamo che l'istruzione sia raccordata al mercato del lavoro e alle possibilità, diciamo, di inserimento nel mercato del lavoro, vogliamo l'umanesimo, vogliamo la tutela, vogliamo una libertà condizionata da un certo grado di civiltà della protezione, diciamo così, non sto facendo del moralismo, noi vogliamo questa roba qua e siamo pronti a questa, non ci piace licenziare, pensiamo che mettere in mobilità le persone sia tutto sommato un atto moralmente riprovevole, quindi non vedo come potremo mai realizzare una vera mobilità sociale, quindi queste cose non sono state intaccate. Una modifica come quella di cui si parla dell'articolo 18 può servire, sì. Le liberalizzazioni possono servire, insomma tutto questo naturalmente può servire, ecco, un rapporto un pochino più realistico tra la persona e il calcolo previdenziale che porterà poi a una vecchiaia minimamente protetta può servire, Monti può fare tutte queste cose qui, la mia domanda è, queste cose qui che sono quelle rese possibili dall'Italia com'è e dall'italiano com'è, bastano nel tipo di crisi di fronte alla quale siamo? Io spero di sì, intendiamoci, sì, sì. Io sono uno di quelli che applica il wishful thinking, cosiddetto, cioè spero le cose che in qualche modo… Però non è detto. La domanda che rimane, da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico, è quella che Padellaro ha introdotto sulla questione dei partiti politici, cioè deve farlo un governo tecnico, ma oppure i partiti politici sono in declino e quindi non sono più in grado di farlo. Per lei Ferrara, che invece ha sempre detto ci vuole più politica, non più governo tecnico. Tra un attimo. Allora vorrei, Ferrara, vorrei ripartire da lei, minimo gradimento storico per i partiti politici, dice Padellaro, e dunque ci vuole il tecnico per cambiare, semmai riuscirà a cambiare gli italiani? Sì, io vorrei dire ad Antonio che dei sondaggi bisogna fidarsi poco, mi ricordo che durante il governo Dini, quei due anni tra Berlusconi e il governo dell'Ulivo, quando fu fatto fuori il primo governo Berlusconi e Dini andò al potere, poi alla fine con l'appoggio del centro-sinistra, Dini aveva il 75% di approvazione. Poi dopo non se l'è ricordato più nessuno, cioè i sondaggi sono strani, chi è al governo pro tempore, in stato di grazia, all'inizio del suo lavoro gode sempre di una grandissima popolarità e i partiti certo che sono impopolari, questo è ovvio, sono falliti, sì. È fallita proprio la ditta, diciamo, il sistema politico, quindi è ovvio che siano impopolari. No, il fatto è questo, io dicevo votiamo sotto la neve, era la mia parola d'ordine quando invece poi fu deciso di fare il governo Monti e di provare con questo esperimento extrapolitico, diciamo, tecnocratico, che poi naturalmente è anche politico, però è tecnocratico in radice, con i partiti fuori che guardano. La neve è venuta. Infatti, ha previsto la neve. Esattamente nei giorni in cui avremmo dovuto votare. Non abbiamo votato. E siccome io sono un realista, non sto qui a rimpiangere la mia parola d'ordine del momento, perché quello era il momento in cui bisognava prendere una decisione, ognuno doveva prendersi la responsabilità e dire quello che pensava. Vedo che tutto va bene, apparentemente, nel senso che Monti è andato a Washington, come voi avete ricordato, che Monti ha certamente, a parte la nuvola d'incenso orrenda di cui parlava Padellaro, comunque ha una buona reputazione internazionale, siamo un pochino più saldi, forse se avessimo votato in questi giorni sarebbe stato un disastro e un governo, sia un governo Bersani, sia un governo Berlusconi o Alfano che ne fosse venuto fuori, potrebbe fare più lentamente e male un terzo delle cose che ha fatto Monti. Sì. Quindi figuriamoci, io sono pronto a rivedere le mie idee. Non stava facendo un mea culpa, no. Anche alla luce di quello che succede, se in Grecia si dicesse vabbè, hanno votato il pacchetto, la Troica è contenta, un'ordinata uscita della Grecia, sia pure con disastrosi sacrifici dalla sua crisi, è possibile, io sarei più tranquillo. Invece pare di capire che il vero nucleo poi della crisi europea del debito, che è quello greco, cominciato due anni fa con i suoi contagi, il vero nucleo è ancora bruciante, ardente, incandescente, cioè, nessuno dice la Grecia ha avviato la soluzione dei suoi problemi. No, ma infatti la soluzione in questo momento non c'è. Su questo, ma questo è terribile. No, ma infatti... Se tu licenzi un terzo degli impiegati pubblici e diminuisci del 20% il salario minimo garantito, metti in crisi gli ospedali, eccetera, e poi alla fine la conclusione è che ancora non si è uscito dalla crisi, vuol dire che noi con questa recessione non so se veramente riusciremo a fare il pareggio di bilancio, non so se veramente riusciremo a mettere sotto controllo le dinamiche aggressive del mercato. Su questo un punto molto importante è quello delle liberalizzazioni. Padellaro, crede che su questo si giochi, anche se spesso si dice il futuro del governo Monti, almeno a stretto giro di posta, perché pare che ci sia il solito assalto alla diligenza, anche questo un po' tutto italiano del voler cercare di non cambiare tutto quello che invece qualcuno vuol cercare di cambiare. Padellaro. Ma guardi, sulle liberalizzazioni è stato già detto quasi tutto, cioè si tratta di tentativi generosi di incidere qua e là, insomma io non credo che il problema dei tassisti romani o di quelli bolognesi sia fondamentale, devo dire, per il futuro del paese. Più farmacie va benissimo, più notai. Insomma, si è notato che le banche, per esempio, non sono state minimamente toccate, ma non perché ci sia da parte di chi parla o di altri una volontà anticapitalista colpire le banche come luogo del malaffare, tutt'altro, ma le banche hanno delle responsabilità rispetto ai clienti, alla clientela che spesso a cui spesso non rispondono, insomma non sono stati fatti non ci sono quegli accorgimenti per cui il cittadino dice sì, ecco, le liberalizzazioni sono effettivamente una svolta anche nella vita quotidiana. Il governo Monti adesso dovrà subire l'assalto in Parlamento, 2.000, 3.000 emendamenti, eccetera. Io ho l'impressione però che questi assalti siano vani, nel senso che mi ricollego a quello che si diceva prima, ha ragione Ferrara a ricordare il governo Dini, sì, effettivamente c'è sempre un'ondata di popolarità che accompagna queste forme nuove, chiamiamole così, anche se poi nuove non sono. Però devo dire che io, per esempio, ieri sera ho ascoltato con attenzione il segretario del PDL Alfano, a che tempo che fa, perché ho notato, diciamo, degli accenti di sincerità che mi hanno colpito, nel senso quando lui dice noi abbiamo preso una botta terribile quando abbiamo dovuto accettare le dimissioni di Berlusconi, no? E ho visto poi che cercava di rifarsi da questa botta terribile dicendo beh, però il Partito Democratico non sta meglio di noi. Ecco, il Partito Democratico non sta meglio assolutamente. Avete visto cosa è successo a Genova? Infatti. I due candidati ufficiali del Partito Democratico, il terzo ha vinto, Vincenzi e Pinotti, sono stati sbaragliati dal terzo incomodo, da Doria, un professore universitario sconosciuto a livello nazionale, probabilmente molto conosciuto a Genova, e che ha vinto perché hanno perso i partiti. Cioè, questo dato del fatto che i partiti non sono più credibili è difficile. Sì, ma questo, Padellaro, è un pessimo, sì. È un segnale buono o no. Interpretare il segnale come pessimo? Per me è un segnale pessimo il fatto che i partiti... Secondo me è un segnale ottimo, ma non perché bisogna assolutamente dare addosso al Partito Democratico in questo caso, però evidentemente anche in questo caso il Partito Democratico ha fatto un errore spaventoso, si è spaccato sulle due candidature. Ma io non parlavo della questione di Genova, cioè l'idea che i partiti sono al minimo livello storico di gradimento, secondo me questo è un segnale negativo, non un segnale buono. Ma è negativo se i partiti non comprendono la lezione, e ho l'impressione, ecco, questo è il punto, che i partiti continuino nella loro inclinazione al suicidio, perché quando per esempio non succede nulla, ma nulla sul piano dei costi della politica, anzi vediamo degli scandali inaccettabili come quello del tesoriere Lusi della Margherita, partiti defunti che continuano a prendere milioni e milioni di euro, ma questi sono spettacoli che la gente non accetta più. E allora la politica a cui tutti guardiamo, la politica dei partiti, anche con rispetto e considerazione, si sta suicidando. Su questo io mi devo fermare, ringraziando Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, e Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Continuate anche su Facebook, siamo lì 24 mattino, ci trovate la discussione. Nel ringraziare tutti, mi devo fermare qui e dare appuntamento a domani alle 7:20. 24 mattino.